in primo piano. Buongiorno, i temi sviluppati dai quotidiani quest'oggi praticamente sono monotematici, è il caso di Eluana Englaro, domina i commenti dei quotidiani tra temi etici, scontri politici, conflitti istituzionali, in una frammentazione di posizioni che attraversano tutti i partiti. Nel fragore delle posizioni gridate, Angelo Panebianco sul Corriere della Sera cerca di dare spazio dei ragionamenti pacati. Vediamo cosa dice sotto il titolo «Quel silenzioso terzo partito». Il conflitto fra i difensori del diritto alla libertà di scelta e i difensori della sacralità della vita, dice Panebianco, è degenerato nel modo in cui sappiamo: la violenza dello scontro ha coinvolto le istituzioni al massimo livello e ha spaccato il paese. Due partiti nemici, si badi, ho detto nemici, non avversari, si fronteggiano e nessuno sa come andrà a finire. Come sempre in questi casi è scattato nei due campi l'ordine di mobilitazione generale, la militarizzazione delle coscienze è in corso e la consegna per opposte schiere è di non fare prigionieri. Panebianco prosegue sul Corriere: anche se non è detto che i protagonisti ne abbiano piena certezza, l'intrattabilità politica del tema trova una eco nel trasversalismi e in certe contorsioni che si manifestano in queste ore nell'arena pubblica. Se il presidente della Camera Gianfranco Fini sceglie di non seguire il leader dello schieramento cui appartiene, aprendo così una frattura difficilmente ricomponibile, ecco che Antonio Di Pietro, l'arcinemico di Berlusconi, dichiara di dare libertà di coscienza ai suoi parlamentari sul provvedimento del governo, ammettendo così implicitamente che il proprio accordo con la scelta del Premier di tenere in vita Eluana e Sinoti, che anche alcuni settori del PD sono orientati a votare a favore. Angelo Panebianco sul Corriere prosegue dicendo: oltre ai due partiti che si scontrano ne esiste anche un terzo, per lo più silenzioso, e che comunque va dalla vicenda, è già stato sconfitto. È il partito di chi pensa che la politica, la democrazia, il diritto e tutte le altre cose più o meno utili astrazioni che siamo soliti invocare per imporre faticosamente un minimo di ordine nella vita associata dovrebbero essere tenute fuori dalla porta, al di là della quale sono in gioco, come in questo caso, le questioni ultime dell'esistenza. Panebianco sul Corriere prosegue dicendo: è il partito di chi pensa che occorrerebbe coltivare nella riservatezza e nella discrezione una zona grigia protetta da una necessaria ipocrisia nella quale le decisioni sul caso singolo, sempre diverso almeno per qualche aspetto da qualunque altro singolo, restano affidate alla sensibilità e alla pietas del medico che ha in cura il malato e ai sentimenti delle persone che lo amano, che quanto si è sempre fatto, che ne dicono certi sepolcri imbiancati, è il partito di chi pensa, conclude Panebianco, che quelle situazioni debbano essere sottratte al clamore delle battaglie di principio. L'Unità apre l'intera pagina con un vistoso titolo che dice: in piazza, domani manifestazione per la Costituzione. Il fondo Filo Rosso di Giovanni Maria Bello, vice direttore del quotidiano, afferma: ha detto il Presidente del Consiglio, se uno dei miei figli fosse lì, vivo, e mi dicono anche con un bell'aspetto e con la capacità di potersi risvegliare, visto che il cervello trasmette ancora segnali elettrici, io non me la sentirei proprio di staccare la spina. Fin qui la citazione di Berlusconi. L'Unità prosegue: per essere ancora più chiaro, in un'altra parte della sua lezione di etica, Berlusconi ha avanzato il sospetto che dietro le scelte di Beppino Englaro ci sia il desiderio di togliersi di mezzo una scomodità. Per sciogliere il dubbio, prosegue l'Unità, abbiamo cercato negli archivi, abbiamo trovato sul Corriere della Sera dell'8 aprile del 2005 una dichiarazione di Veronica Lario, la moglie di Berlusconi. Erano i giorni della polemica attorno al referendum sulla procreazione assistita. La moglie di Berlusconi, la cosa fece grande scalpore, annunciò che sarebbe andata a votare e spiegò così la sua scelta. C'è, virgolette, dichiarazione testuale di Veronica Lardo, un'esperienza personale che mi fa riflettere. Ho avuto un aborto terapeutico molti anni fa, al quinto mese di gravidanza ho saputo che il bambino che aspettavo era malformato e per i due mesi successivi ho cercato di capire con l'aiuto di medici che cosa fosse più giusto fare. Al settimo mese di gravidanza, prosegue la moglie di Berlusconi, sono dolorosamente arrivata alla conclusione di dover abortire, chiuse le virgolette. Qui prosegue il commento dell'Unità che dice: un bambino malformato, la fatica di capire come sarà la sua vita, se sarà degna di essere vissuta, quindi la decisione, terribile e dolorosa. Nessuno, signor Presidente del Consiglio, si permetterà mai di sostenere che lei, perché di certo visse quel dramma, di certo condivise quella scelta e quel dolore, agì per liberarsi di una scomoda presenza. Noi infatti la rispettiamo, impari anche a lei a rispettare gli altri. Sul tema della Englaro anche Repubblica schiera le sue firme più prestigiose. Dopo l'intervento di ieri di Eugenio Scalfari, quest'oggi intervengono Andrea Manzella, Filippo Ceccarelli, Natalia Aspesi e anche Gustavo Zagrebelsky. Il Manzella dice: negli ultimi 15 anni l'unica vera e grande sconfitta del centrodestra avvenne il 25-26 giugno del 2006, quando il 61,7% degli elettori bocciò il progetto di revisione costituzionale del terzo governo Berlusconi. E quindi questo tema riprende lo scontro che è in atto fra i due schieramenti di maggioranza e opposizione sulla necessità e urgenza di rivedere l'attuale Costituzione. Natalia Aspesi, sotto un titolo "Giù le mani da quel corpo", dice: attorno a un corpo assente in cui il tempo e il sangue scorrono insensibili come sabbia in una clessidra, isolata nel silenzio e nell'estraneità della vita, continua ad agitarsi dissennata una parte del paese. Il giornale ha un fondo di Paolo Granzotto, il titolo è "Chi sghignazza sulla tragedia". Per la sinistra, dice Granzotto, e per la Repubblica che ne costituisce il pensatoio, non esiste più un caso Englaro, o meglio, sussiste solo come pretesto per aprirne un altro, cioè il caso Berlusconi. Impaziente di procedere alla consumata pratica di speculare sui cadaveri, questa volta i sinceri democratici non hanno nemmeno avuto il pudore di attendere il decesso da loro peraltro invocato della povera donna per saltarci su a pie pari con quell'alibi, sferrare una campagna di odio nei confronti di Silvio Berlusconi col chiaro intento di delegittimarlo, dare così la spallata risolutiva al governo e riappropriarsi di ciò a cui più tengono, il potere. Infatti, nella sua domenicale omelia, Eugenio Scalfari, fondatore della Repubblica, ha accusato il Presidente del Consiglio di aver pretestuosamente sollevato il caso Eluana un po' per stornare l'attenzione dell'opinione pubblica dalla crisi economica, molto per dare sfogo alla sua pulsione dittatoriale. Sull'Unità c'è una lunga intervista al segretario del PD Walter Veltroni, il titolo dice: Berlusconi se lo tolga dalla testa al Quirinale non ci andrà mai. Domani in piazza saremo in tanti a Roma e Milano per difendere il capo dello Stato e la Costituzione dagli attacchi del Premier. Walter Veltroni ritiene che a proposito della Carta Costituzionale essa sia il meglio della storia del nostro Paese, quindi esattamente quello che a Berlusconi non piace. Sulle venature autoritarie Veltroni lo dissi già a settembre, c'è il rischio di una trasformazione della nostra democrazia secondo il modello Putin. E annuncia poi dopo che il voto del PD, libertà di coscienza, decideranno i gruppi, certo, si è impedito di affrontare in modo serio un tema di grande rilevanza etica. A proposito della intoccabilità della Costituzione, interviene Peppino Calderola su Il Giornale. Peppino Calderola è un ex direttore dell'Unità. Il titolo dice: carta intoccabile, sì, ma solo quando fa comodo al PD. Con la bicamerale di D'Alema, dice Peppino Caldarola, l'intera seconda parte della Costituzione venne riscritta in modo radicale, soprattutto nella parte che riguardava i rapporti fra la magistratura e le altre istituzioni, e solo la rottura politica fra centrodestra e centrosinistra impedì di sostituire il testo della Costituzione del 1946 con norme del tutto nuove. Se andiamo indietro nel tempo troviamo altri esempi, dice Caldarola su Il Giornale. Prima della bicamerale il PC aveva più volte messo in discussione il proprio rapporto con le norme fondamentali della Costituzione. Dobbiamo ricordare che solo nel 70 si è arrivati alla creazione delle regioni, mentre per tutti i precedenti 24 anni il principale partito della sinistra vi si è opposto, così come tuttora resta inattuata e quindi violata la parte della Magna Carta, dice Caldarola sul Il Giornale, che impone una regolamentazione dei partiti e dei sindacati. Con questi esempi siamo di fronte a un mancato inchino di fronte alla carta che rimanda a un comportamento omissivo, cioè inchiniamoci di fronte al supremo testo ma non lo applichiamo in tutte le sue parti, sembra dire la sinistra. Sull'Unità c'è un'intervista a Bruno Tabacci, componente dell'UDC. Silvio Berlusconi è come Putin, sta usando Eluana. Il deputato UDC ha aderito all'appello dell'Unità in difesa della Costituzione. Il suo scopo, dice lo scopo di Berlusconi, dice Tabacci, è far fuori Napolitano. Lo è stato, in questo caso il premier è stato piuttosto violento, come lo è stato anche prima di Natale, dice Tabacci, quando ha lanciato il sistema presidenziale. Era stato contestato da più parti e adesso l'ha collegato con un tema concreto che divide il paese. È uno, Berlusconi, che sa il fatto suo, mica un signore che non sa di che cosa parla. Ora vorrei sapere che cosa ne pensa Vassallo o gli altri che vogliono cambiare i regolamenti parlamentari che davano per scontato che la Costituzione fosse superata. Bruno Tabacci prosegue sull'Unità. E a proposito della definizione di Berlusconi che abbiamo una Costituzione sovietica, certo, lui che è amico di Putin può permettersi, dice Tabacci, di dire queste cose. Berlusconi non vuole nessuno, per lui lo Stato è come un consiglio d'amministrazione. Avete votato una volta, io ho il pacchetto di maggioranza, non si discute. Però il modello del sindaco d'Italia è la scorciatoia alla quale anche alcuni autorevoli esponenti del PD hanno pensato, se no sarebbero intervenuti sulla legge elettorale, non sarebbero intervenuti sulla legge elettorale. Insomma, aver dato un premio di maggioranza a Berlusconi comporta che un giorno si permette di usare Eluana o il federalismo per cambiare il sistema democratico da, dice Bruno Tabacci, democratico a sudamericano. Sul Resto del Carlino c'è un fondo di Andrea Cangini, dal titolo La legge passerà. La questione, dice Cangini e Luana, è l'ennesima dimostrazione dell'eterno ritardo della politica. Della legge sul testamento biologico si parla da almeno un decennio e nonostante le campagne dei radicali, i casi di Luca Coscioni, di Pier Giorgio Welby, centrosinistra e centrodestra hanno sistematicamente eluso il tema. La sentenza con cui la Cassazione riconosce al padre di Luana il diritto a staccare la spina, tra virgolette, è del 13 novembre. La legge che ha iniziato il suo iter solo tre giorni fa, se non fossero stati obbligati dal precipitare degli eventi e delle pressioni vaticane, deputati e senatori continuerebbero a votarsi dall'altra parte. Dalla Repubblica c'è una notizia, il padre di Terry Schiavo, morire così è una barbarie, è di gran lunga la morte più dolorosa che un essere umano possa sperimentare, questa è la ragione per cui accade sempre nella più stretta riservatezza al riparo di testimoni e cineprese. Bob Schindler, il padre di Terry Schiavo, ha scritto una lettera a Beppino Englaro chiedendogli con queste parole di interrompere il protocollo che dovrebbe portare alla morte di Eluana. Dibattito aperto su questo tema anche sul Messaggero, dove si confrontano due opinioni diverse, una di Onida che dice i principi sono intoccabili e il premier ha già abbastanza poteri, giusto a proposito del bicameralismo da rivedere, giusto differenziare funzioni e composizioni delle camere. Mirabelli invece dice il governo deve avere gli strumenti per attuare il programma, quindi c'è l'esigenza di assicurare l'esecutivo tempi certi di approvazione delle leggi nelle Camere. Su il foglio c'è un veemente intervento di Giuliano Ferrara, il direttore che è un giornalista che ha assunto su questo tema fin dagli inizi una posizione molto decisa. Il titolo dice che branco di mascalzoni questi gentiluomini che si dicono laici. Secondo loro, dice Giuliano Ferrara, un piccolo popolo che ha finalmente trovato a Udine un boia asettico e clinico, saremmo noi a usare il corpo di Eluana. Noi che lo vorremmo in pace, quel insieme di anime di corpo che appartiene a una cittadina adulta e titolare del diritto alla cura e alla vita, loro che lo hanno sequestrato le suore misericordiose di Lecco e lo hanno gettato in una tetra stanza dove decine di volonterosi carnefici piagnoni lo affamano e lo assetano in reverente obbedienza a una sentenza definitiva. Alla faccia della moratoria, dice Giuliano Ferrara sul foglio, contro la pena di morte, quel grido ipocrita della società abortista ed eutanasica ed eugenetica, quel gesto simbolico invocato contro le sentenze definitive di condanna a morte, che ora viene rimproverato a noi che vogliamo una moratoria anche per la Englaro, da questi sepolcri imbiancati. Il Corriere della Sera dà la notizia che ci sono anche Renato Pozzetto firma per la vita, la scelta degli attori e gli amici del vecchio derby. Certe posizioni stupiscono pure perché magari da alcuni personaggi ti aspetteresti altro, dice il Corriere, come dall'ateo laico, autodefinizione Enzo Iannacci, che si è detto contro la sospensione di alimentazione o idratazione. Ma ecco che Renato Pozzetto sottoscrive l'appello al capo di Stato per salvare la vita a Eluana Englaro, lanciato da un gruppo di personalità cattoliche e laiche. Pozzetto dice: è giusto che il governo faccia una legge che dica cosa si può e cosa non si può fare. Interpellino gli esperti che lavorano al Ministero e chi è competente. Il Parlamento è stato eletto per legiferare. Non è possibile, conclude Renato Pozzetto, che ognuno decida in base a considerazioni personali. Il Corriere della Sera riporta alcune posizioni, come ad esempio quello del ministro Ombra Colaninno, che dice: mai mi farei staccare l'alimentazione, sono per la vita. Il vice segretario del PD Franceschini dice: seguo la volontà del padre, non sosterrò il DL. La Chiesa ricorda i valori, io, conclude Dario Franceschini, decido in autonomia. Sul piano, uscendo da questa vicenda della Englaro, che ha effettivamente monopolizzato tutti gli opinionisti dei quotidiani, c'è da segnalare una notizia in controtendenza rispetto alle attese, cioè lavoratori UE sì della Svizzera, ma il Ticino si oppone, dice il Corriere della Sera. Con una certa sorpresa, visto che i sondaggi dicevano che questo referendum sarebbe stato un testa a testa, i favorevoli alla libera circolazione vincono con il 60% dei voti, nonostante il fronte anti-italiano. In sostanza, il Canton Ticino ha votato contro questo referendum, per fortuna gli altri cantoni sono per l'apertura di questo piccolo grande paese. I sondaggi prevedevano un testa a testa e invece la Svizzera ha approvato con un largo 59,6% gli accordi con l'Unione Europea sulla libera circolazione delle persone, estendendo tale diritto anche ai romeni e ai bulgari. Tirano un sospiro di sollievo innanzitutto i cosiddetti frontalieri, cioè i pendolari che da Italia, Francia e Germania quotidianamente vanno a lavorare nelle aziende e nei cantieri elvetici. Viene invece sconfitto il fronte protezionista e xenofobo con una sola vistosa eccezione, il Canton Ticino, dove in virtù degli accordi con l'Unione Europea lavorano attualmente ben 42.000 lavoratori italiani. Il Messaggero spariglia le carte opinionistiche aprendo, secondo me opportunamente, con il giornale con un fondo di Carlo Gin dedicato al voto in Israele. Israele domani il voto, la via stretta delle urne alla pace. Domani 10 febbraio gli elettori israeliani andranno alle urne, sarà la quinta votazione in 10 anni. Le elezioni sono state rese necessarie dalle dimissioni del premier Olmert. La composizione del nuovo governo israeliano influenzerà l'intero processo di pace in Medio Oriente, ma verrà determinata solo marginalmente dai risultati del voto. Sarà infatti, dice Jean sul Messaggero, come i precedenti, un governo di coalizione costituito da partiti con visioni e programmi diversi. Il secolo XIX, in prima pagina, sottolinea che in Unione Europea sono stati perduti 130.000 posti di lavoro in soli 4 mesi e l'industria ne ha tagliati 158.000. Una breve, riferiamo brevemente sul campionato di calcio. La Gazzetta dello Sport lo riassume nel fondo di Alberto Ceruti: vince la Juventus, dice, stravince Ranieri, prima con le sue scelte in campo, poi con il suo stile fuori. E questa la risposta da Catania all'ultima prova di forza dell'Inter, mai così in fuga, con 7 punti di vantaggio sui bianconeri, 8 sul Milan, di nuovo terzo, tanti per sognare lo scudetto ma non abbastanza per annusarne il profumo. La Gazzetta dello Sport conclude: perché domenica c'è il derby e tra i due litiganti la Juventus è pronta a godere. Sul Corriere Economia c'è una lunga intervista a Rocco Sabelli. All'Italia nuovi aerei e meno code, tutte le promesse di Sabelli, la prima uscita del manager dopo la privatizzazione delle compagnie, il nodo dei prezzi alienati, il piano di primavera dell'amministratore delegato. Puntiamo sulla Milano-Roma. Il Repubblica, sempre in affari e finanze, il supplemento economico, interviene sul caso dell'Expo. Milano tra risse e rinvii, così l'Expo rischia il flop. E poi dopo illustra le mosse di Tronchetti Provera tra pneumatici e mattoni. Il Messaggero parla del nuovo corso di Mosca, il nuovo corso degli Stati Uniti. Mosca, sia pure prudente, dice che è un inizio molto positivo, piace l'idea di archiviare l'era Bush, ma c'è cautela. E finisce così la rassegna stampa di quest'oggi. A domani alla stessa ora. Grazie.